Noi abbiamo un po' ragionato, insomma, al di là della piazza in sé, anche su dei contenuti che erano stati portati sia dalla chiamata, diciamo, ufficiale se non ora quando, sia invece dalle compagne che si sono staccate in qualche modo e si sono spostate verso Montecitorio. Io ti volevo chiedere qual è stata anche l'impressione della composizione che c'era in piazza quest'oggi. Guarda, diciamo che io ho visto, insomma, da Piazza del Popolo e anche il corteo verso Montecitorio. Devo dire che in piazza è scesa una posizione molto vasta. Se devo essere sincera, facendo delle interviste così a via del corso, mi hanno detto che l'intervento più fico, anche delle donne, delle compagne che poi sono venute al corteo, eccetera, da Piazza del Popolo è stato quello della suora, che ha nominato una parola che in questi giorni io difficilmente ho sentito da vari appelli, che è la parola maschilismo, che è ovviamente, diciamo così, un po' sarebbe dovuto essere un po' più l'oggetto del contendere, della discussione, e quindi non tanto rivolta a prendersela con le altre donne o alle donne, ma a denunciare il fatto che siamo in una società maschilista, in cui lei lo faceva anche rispetto addirittura a tutto il clero, mi sembrava, insomma, addirittura, no? Un avanzamento da quasi scavalcate a sinistra. Comunque, al di là di questo, noi non ce l'abbiamo, perché sono qua con una compagna, poi faremo insieme un po'. Non ce la siamo presa, per esempio, noi col clero, mai, il clero non è mai a parte, questa cosa, per esempio, non va bene, per cui diciamo che sicuramente Piazza del Popolo, il corteo, è andato bene, insomma, c'è questa voglia un po' anche data, secondo me, da un anno in cui le piazze in Europa, ma anche in questo momento nel Nord Africa, sono presenti molto forte, in maniera molto preponderante, vogliono dire la loro, la gente si è rotta le scatole, vuole dire la loro, vuole soprattutto che non ci può essere più questa disuguaglianza totale tra chi comanda, chi decide e poi la popolazione. Quindi, insomma, penso che tutti gli studenti a Londra, piuttosto che a Roma, piuttosto che in Francia, possiamo parlare di quello che è successo dell'ex Jugoslavia, piuttosto che in Albania, piuttosto l'Egitto, Tunisia, Algeria, Siria, insomma, vabbè, è tutto quanto. Oggettivamente c'è una voglia della gente di dire, insomma, di scendere per avere e prendersi la parola, perché nessuno gliela dà, quindi finalmente ce la prendiamo. Bisogna adesso capire come continuerà, dove si andrà a parare, perché insomma, delle richieste sono state fatte, due, quelle del corteo sono state, quella dello sciopero generalizzato e quella delle dimissioni. Tante donne a Piazza del Popolo hanno continuato a dire, insomma, che Berlusconi e questo governo se ne devono andare. Io ritorno a parlare di maschilismo, un po' mi sento in questo momento vicino alla suora. Ti sentivi? No, non è molto carino. Volevo anche chiedere, qua c'è una compagna che ha organizzato il corteo, eccetera, che c'ha questa fantastica spilla, anche io sono una puttana, che era un po' anche in risposta a questa cosa che ci continuano a dire sempre contro le puttane, o piuttosto che fanno quelle le donne brave, fate vedere quanto siete brave, insomma, noi siamo così, cioè, un po' di tutto, non è che questa divisione tra le donne, assolutamente, esatto. Secondo me questa piazza, anche Piazza del Popolo, non è stata così, non c'erano delle divisioni, le donne si rendono conto che stando insieme, insomma, possono ottenere molto. Lascio un attimo la parola a questa compagna vicino a me e poi casomai ritorniamo noi. Perfetto. E le conclusioni sulla giornata e su quello che saranno poi il lavoro delle donne prossimamente, nel senso che ci stanno anche tante leggi che vogliono, e io poi voglio la parola maschilismo anche all'interno del movimento. Allora, ciao a tutte e tutti, ma siamo qua del corso e c'è un sacco di gente che penso che torni da quella piazza. Io sinceramente non sono stata in quella piazza, sono solo entrata nel momento in cui l'abbiamo attraversata cercando di proporre, diciamo, il corteo. È stato molto difficile perché era proprio imbottigliata, così, quindi a un certo punto abbiamo deciso comunque di partire, anche se non eravamo tantissime, poi siamo cresciute, eccetera, e il corteo è stato in realtà molto interessante, sia nelle pratiche della determinazione, poi anche, cioè, sempre a me poi colpisce sempre questa pratica anche femminile e femminista, di sconvolgere un po', e anche di fare anche il fatto che non si prevede, no? Perché hanno certe donne in piazza, decidono che si va da una parte, si va dall'altra, e oggi abbiamo deciso che non riusciamo ad entrare in piazza e quindi siamo andate a bloccare il Lungotevere, poi siamo andate sotto piazza Montecitorio. Io penso che poi questo sia il fatto, cioè a me sembra abbastanza rilevante che al di là che oggi questa domenica, quindi abbiamo perso penso la connessione con il telefono, proviamo a richiamarla magari in diretta. Portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere. Siamo fuori dal master ovviamente, per raccontare quella che è la piazza di oggi, le piazze di oggi. Siamo di nuovo in collegamento con la compagna con cui stavamo parlando, non so se ci senti adesso. No, non lo so fino a dove siamo arrivati, però. Allora, no, ci stavi raccontando anche della necessità di stravolgere, no, alcuni temi che sono stati al centro un po' della costruzione di questa giornata, almeno dell'appello, quello diciamo così ufficiale, no? Questo aspetto delle brave ragazze in qualche modo che scendono in piazza e che si contrappongono a chi, come appunto le amiche del presidente Berlusconi, ecco, questo ci sta dicendo proprio di questa voglia anche invece di deturnare, perdonami il termine, questo messaggio. No, certo. No, io, no, è proprio così, nel senso che io penso che ci sia bisogno di fare politica in qualche modo, cioè ci sono state così tante leggi sui nostri corpi, ci stanno un sacco di problemi per le donne che sul lavoro, in famiglia, eccetera, cioè non ce ne fa più in qualche modo, sta esplodendo, quindi per me il problema anche delle piazze di oggi, anche nelle pratiche che si sono scelte, tipo la piazza col palco. Non annellito, cioè era ovvio che nascesse un corteo, no? Per dire, ma questa pratica del corteo poi in realtà non è solo il corteo, no? Ma è anche dire per me che esistono così tanti problemi che magari non potevano essere racchiusi da quei pochi interventi di piazza, che magari sono stati anche interessanti, poi sono stati però anche diciamo delle rappresentanze che alcune certo. poco ci rappresentano, a mio avviso. No, anche... di là. Anche perché io, la suora, no? A parte la suora, ma io ho l'impressione che ho avuto... A parte la suora che magari ha detto pure cose giuste, no? ma aspetto che abbia detto cose più giuste degli altri. Però ho capito, cioè, ci stanno... Boh, il palco nella piazza, per me, non ci sta bene. C'è un po' rotto le scatole. La politica delle donne, ma poi soprattutto la politica delle donne è sempre stata fatta da altre cose. Non so perché si è voluto mettere questo palco in piazza. A me dispiace, quindi per questo abbiamo scelto pure di andarcene un po' da quella piazza. Non era solo una questione dei prati, cioè dei contenuti, eccetera, ma pure di una pratica di piazza che evidentemente non ce l'ha presenza, e abbiamo cercato di fare altre cose. Me penso che essere arrivati sotto a Montecitorio è un fatto politico, che le donne sono arrivate sotto piazza Montecitorio a ridaglie le leggi di merda che hanno fatto sul corpo delle donne in questi anni, questi governi, uno dopo l'altro, perché nessuno mai gli ha fregato un cazzo della vita delle donne, le esistenze differenti che ci abbiamo. Quindi a me sembra che si può aprire, cioè la chiudo così, si può aprire uno scenario interessante, uno proprio di piazza, cioè di gestione di piazza, di comunque riportare il conflitto in piazza pure da parte delle donne, costruire assemblee, costruire momenti di dibattito, aprire cioè una comunicazione che vada al di là di questa giornata, con chi ci vuole stare, perché se gente che stava in quella piazza, no, che non è che dico solo per forza bisogna costruire la parte più radicale, ma se gente che stava in quella piazza vuole discutere anche con altre, vuole cioè appunto stare su contenuti e meno su, no, su un posizionamento strettamente politico dell'opposizione, no, parlamentare così data, cioè oggi l'opposizione si dà in differenti forme evidentemente, che non possono stare all'interno delle rappresentanze politiche esistenti, a mio avviso, se ne formano altre nuove. A me mi sembra che sia questo un po' l'obiettivo, cioè formare l'opposizione sociale, e di questo vogliamo discutere con tutte e con tutti. L'opposizione sociale non si discute, si pratica. Così. Esatto. No, vabbè, che sia, intanto qua interloquisce. Vabbè, quindi niente, volevo dire solo questo, vi ringrazio. Noi ringraziamo voi, ovviamente. Cristina, sì, qua. Sì, grazie. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Eccomi. Guarda, io penso che possiamo chiudere con questa, no, con quest'ultima affermazione che non posso che... L'opposizione sociale si costruisce, non si discute, questo no, dicevo non posso che condividere, ovviamente, quanto vabbè detto. Io sì, direi che volevo anche riprendere, insomma, penso che dopo questo la parola ora aspetti anche a chi ha una... Anche gli uomini dovrebbero dire delle cose ogni tanto. Io su questo un po' lo lancerei anche dalla radio. Non penso che chi ascolta Radio Onda Rossa, il movimento intero, sia esente da tutto quello che, sia, che sta succedendo e da un modello maschile e femminile che, insomma, dopo anni di lotta ancora si ripropone. E su questo la parola maschilismo, insomma, è ancora molto presente. Assolutamente. In tutti noi, certamente, certo, anche in questo momento. Per cui vediamo che cosa succederà in futuro. Da qua piazza, da Via del Corso, che è piena di gente, c'è veramente un panico allucinante. Io direi che possiamo terminare qua. Io vado a prendermi un gelato con le compagne. Mi sembra giusto. Un abbraccio, allora. Un bacio alla radio. Ciao, ciao, ciao. E allora, appunto, con questa corrispondenza chiudiamo le corrispondenze della piazza, ma è chiaro che noi continueremo a parlare della radio come sempre facciamo, continueremo a seguire e a raccontare quello che facciamo dalle nostre piazze, dalle nostre mobilitazioni. Diciamo che l'impressione che io personalmente ho avuto proprio di quella piazza, non so se è positiva o negativa, ancora devo dare un giudizio, diciamo, di valore, è che non c'è spazio. Alle donne viene sempre chiesto di essere straordinarie, cioè devi essere una astrofisica, devi essere una fisica nucleare, devi essere una scrittrice, una poetessa, altrimenti non hai diritto di parola. Mentre gli uomini possono pure essere mediocri, tanto